Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi siamo in compagnia di Alessandro Zaccuri, autore di Dopo il miracolo, pubblicato da Mondadori. Questo romanzo può essere definito un po' un giallo e nello stesso tempo anche un giallo teologico. Poi spiegheremo con l'autore naturalmente il perché. Il romanzo si apre con un suicidio. Un ragazzo, Beniamino, si impicca alla cancellata di un seminario e in questo seminario studia il fratello Guido. Diciamo che una protagonista di questo romanzo è un'intera famiglia, la famiglia De Fanti. Allora Alessandro, ci vuoi spiegare chi è questa famiglia? Questa è una famiglia che viene dal mondo contadino e si è trovata precipitata nel mondo moderno. Il mondo del romanzo è ambientato nell'85, quindi in una fase di tante transizioni. Una è questa che ho descritto, l'altra è l'uscita dell'Italia dagli anni di emergenza del terrorismo e invece così l'approdo a un periodo apparentemente più spensierato, di grande benessere, di grandi sicurezze. La famiglia De Fanti ha proceduto di sicurezza in sicurezza finora, sempre legata a questa sua fede molto forte e molto tradizionale e sempre sostenuta da un grande benessere di tipo economico. Beniamino, l'ultimo genito di questa nidiata prodigiosa di 12 figli, con il suo gesto, in qualche modo, in maniera drammatica, spezza questo equilibrio, perché, come molte volte fanno i giovani e i giovanissimi, vuole agli occhi di un mondo che lui ritiene in qualche maniera ipocrita, se non addirittura corrotto, vuole proclamare la sua purezza. E da questo suicidio nasce, diciamo, il giallo tradizionale, perché il ragazzo ha lasciato un biglietto che recita così: io vado, la Madonna ne aveva promessi 12. Un biglietto apparentemente misterioso, sul quale tra l'altro un ispettore decide anche un po' privatamente di indagare. Che cos'è questo biglietto? Beh, non lo posso dire fino in fondo. Beniamino si riferisce al mito di fondazione, chiamiamolo così, della sua famiglia. I suoi genitori, non riuscendo ad avere figli, avevano fatto questo voto alla Madonna di, nel caso appunto, avere 12 figli. Ed è un voto che è reale, cioè io ho conosciuto davvero la storia, non la famiglia direttamente, di una coppia che negli anni 60, grosso modo quando coetanei, quindi dei genitori di Beniamino, hanno fatto questo voto e lo hanno anche compiuto. Quindi quando parlavo prima della convivenza di un'Italia molto tradizionale e imprevedibile in un contesto che invece crediamo somigli molto a quello dei nostri anni, mi riferivo anche a qualche piccola esperienza personale. È un giallo, per modo di dire, in realtà quello di Beniamino, perché che cosa è successo è chiaro: la morte del ragazzo è senz'altro da imputare a un suicidio, non c'è nessun mistero sui fatti. Questo ispettore Canova, che, come dicevi tu, volontariamente, privatamente si mette a indagare, lo fa spinto da un rovello di tipo morale. Anche lui è padre di un bambino molto piccolo e si domanda che cosa significherebbe vivere con questo dolore di essere sopravvissuti a un figlio che si è tolto la vita. Lui vuole cercare proprio di capire perché l'ha fatto, esatto, questo ragazzo. Esatto, vuole cercare di capire. È un pochino, diciamo, l'alter ego del lettore, in realtà. Cioè, l'ispettore Canova è lo sguardo del lettore che entra nella storia di questa famiglia, entra anche un po' nei segreti di questa piccola città di provincia immaginaria, però insomma siamo geograficamente grosso modo tra Parma e Piacenza, su quel versante di Appennino, entra un po' nei segreti di questa cittadina e scopre più di quello che si aspetta, e scopre più che altro che questo segreto, questa colpa che in qualche maniera Beniamino voleva denunciare, forse non era una colpa, e se era una colpa, era una colpa che aveva a che fare più con la tenerezza. Ecco, non diciamo altro, no, naturalmente, per non togliere il gusto della lettura, che, come dicevamo, in parte è anche un po' giallo questo romanzo. Accanto alla famiglia De Fanti possiamo dire che l'altro grande protagonista collettivo di questo romanzo è il seminario, dove appunto Beniamino si è suicidato, il fratello Guido studia appunto per diventare sacerdote. In questo seminario, insomma, ci sono diversi personaggi fra studenti ed insegnanti, in particolar modo la figura di Don Alberto. Chi è questo Don Alberto? Don Alberto è un enfant prodige della teologia, un teologo ancora molto giovane che viene da questa piccola diocesi dove ci troviamo, questa piccola città di provincia in cui è ambientato il romanzo, però molto rapidamente ha iniziato a studiare all'estero, aveva il suo insegnamento a Roma, alla Lateranense, e in maniera anche qua inspiegabile, a un certo punto ha deciso di ritornare a casa con una serie di motivazioni ufficiali per ritirarsi a una vita più tranquilla, proseguire meglio i suoi studi, ma un po' tutti i seminaristi sospettano che ci sia dietro qualcosa, ci sia appunto un altro segreto. È vero, cioè, sono un pochino due piste che si intrecciano. Io ho l'ambizione di dire come accade un po' nella vita quotidiana, noi non è che sappiamo subito come vanno a finire le cose, o meglio perché sono accadute. E anche questa storia di Don Alberto piano piano viene alla luce perlomeno un tratto del suo carattere. Questo è un prete molto particolare. È un prete molto progressista, lui per esempio dice non credo ai miracoli. Non lo dice in maniera così esplicita, però lo capiscono molto bene i suoi studenti. Sì, è un prete che è convinto che la fede sia una faccenda della testa, ecco, quindi lui ha questo grande desiderio di scrivere un trattato che sistemi questa questione dei miracoli in via definitiva, vorrebbe avere la sua bibliografia, è convinto che credere significhi capire, e si scontra invece in questo libro, in questo romanzo, con un altro modo di intendere la fede molto diverso dal suo, apparentemente inconciliabile, che è quello di chi dice che la fede è soltanto invece una questione del cuore. E questo è, diciamo, dal mio punto di vista perlomeno il vero centro del libro, cioè a me quello che interessava raccontare era questa apparente inconciliabilità. E prima dicevamo di giallo teologico, riguarda appunto la figura di Don Alberto, ma non diciamo troppo, insomma, è legato al tema dei miracoli. In questo romanzo c'è molta teologia, anche se raccontata in modo proprio comprensibilissimo, molto, molto facile da capire. Quindi da parte tua c'è proprio una passione per la teologia, c'è uno studio ovviamente. Allora, io non sono stato in seminario, ho avuto molti amici seminaristi, oggi preti, conosco questo mondo. Sì, è un mio interesse molto forte quello di capire come anche le ragioni, ecco, tra l'altro il pontificato di Benedetto XVI è un pontificato molto contraddistinto da questo interesse per la teologia, per la ragionevolezza del credere. E nel libro ce n'è un po', c'è secondo me quella che ci doveva essere. Io dico la verità, sono un pochino deluso quando in un libro o al cinema trovo rappresentato il sacerdote completamente ignaro di questo sapere, completamente disarmato. Io credo che sia una parte di realtà questa, quando anche ci sono alcune citazioni apparentemente, no, non apparentemente, precise, però non è che uno debba andarle a recuperare. Io dico sempre che è un po' come quando guardiamo un episodio di AR, non è che dobbiamo sapere esattamente la composizione farmacologica del rimedio che stanno somministrando i dottori al pronto soccorso, basta che capiamo che quelli sono dei dottori. Quindi qui i preti parlano di teologia, si dividono anche su alcune convinzioni teologiche perché sono preti. Che sono preti, ognuno con la sua storia, e però tutti insieme con questo armamentario che dovrebbe cercare, dovrebbe renderli in grado in qualche modo di venire a patti con questo grande mistero della vita. Questo romanzo, dopo il miracolo, è stato accolto molto bene dalla critica. Fra le cose che ho letto c'era una definizione di romanzo cattolico contemporaneo. Ti ci rivedi in questa definizione? Questa è una questione complicatissima. Se ci siano i romanzi cattolici, se siano i cattolici che scrivono romanzi, io questo non lo so. Certo, io mi sono un po' confrontato con una tradizione che fino a non tanti anni fa anche in Italia era molto visibile. Io faccio un paio di nomi, almeno quello di Luigi Santucci e di Mario Pomiglio, due autori lo so che oggi non sono molto in voga purtroppo, anche se qualcosa sta iniziando a muoversi, però erano autori che nel periodo in cui mi sono formato io, che grosso modo è quello del romanzo tra gli anni 70 e anni 80, leggevamo e facevano parte del dibattito. Penso anche a un autore come François Mauriac, che Adelphi sta riscoprendo come narratore puro, come grande narratore puro, e che è uno scrittore che è stato definito a lungo scrittore cattolico perché ha avuto il rovello appunto di mettere i casi della vita a confronto con le grandi domande della teologia. Una cosa è certa, non bisogna essere né cattolici né credenti per leggere e appassionarsi insomma a questo libro. Ringrazio Alessandro Zaccuri, autore appunto di Dopo il miracolo, un libro che vi consiglio vivamente, pubblicato da Mondadori, e vi ricordo che ritrovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco.